Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera parliamo di prevenzione e lotta agli incendi boschivi. Come si sa, gli incendi sono un grave problema in varie aree del mondo e l'Italia, soprattutto alcune regioni italiane, non fa eccezione, con un numero di incendi molto variabile di anno in anno, ma che supera facilmente i 10.000, e quindi con decine di migliaia di ettari di bosco che letteralmente se ne vanno in fumo. Ebbene, da alcuni anni all'IMA CNR, l'Istituto di Metodologie per Analisi Ambientale, si sta mettendo a punto FireSat, un sistema informatico integrato che a partire da immagini satellitari consente di fare sia prevenzione che di fornire indicazioni operative nel corso di un incendio. Ne parliamo con Rosa La Saponara, ricercatrice del CNRI, ma è appunto responsabile del progetto FireSat. Buonasera La Saponara. Buonasera, la ringrazio per l'opportunità di spiegare un po' questo sistema. Grazie a lei. Allora, intanto le chiedo, quali sono gli effetti di un incendio boschivo al di là della distruzione del manto vegetale, che è la cosa che viene in mente a tutti? Sì, purtroppo gli effetti degli incendi sono tantissimi e a diversa scala temporale. Immediatamente c'è, come diceva lei, una distruzione del manto vegetale, con anche ripercussioni immediate sul turismo, quindi sull'economia delle zone purtroppo interessate dall'incendio, sulla fauna, ma purtroppo anche sul suolo. Questo significa che dopo un incendio, a seconda delle temperature in gioco, con le piogge, il suolo non è più in grado di assolvere alle sue funzioni. È come, per dare un'idea e fare un esempio molto banale ma efficace, spero, è come se andassimo a pavimentare un bosco. Perché probabilmente la temperatura cuoce, esatto, addirittura il suolo, rendendolo, esatto, quasi impermeabile, no? Esatto, assolutamente sì. Dipende, ripeto, dalle temperature, ma quando si ha situazioni tipo incendi estivi con temperature elevate, argilla e altro, purtroppo ci sono situazioni in corrispondenza delle quali l'effetto dell'incendio equivale, per dare un'immagine, a pavimentare il bosco. Sostanzialmente c'è un rischio di dissesto idrogeologico a causa dell'incendio, se ho capito bene. Che... notevolissimo, infatti noi l'abbiamo sperimentato non a caso in Basilicata, regione caratterizzata da un fortissimo problema di dissesto idrogeologico. E anche da incendi. Quindi i due fenomeni possono essere correlati, soprattutto in un paese come l'Italia che ha il problema del dissesto idrogeologico. Senta, veniamo alla vostra piattaforma informatica. Dicevamo, un primo strumento che mette a disposizione sono delle mappe di rischio. Come le ottenete e che informazioni offrono? Noi le otteniamo a partire soprattutto da dati satellitari gratuiti, disponibili e scaricabili dai siti della NASA, per esempio, e queste mappe vanno a fornire delle indicazioni su quanto l'incendio può essere pericoloso. In pratica sull'incendiabilità dell'area, diciamo così. Esatto, sull'incendiabilità dell'area, che significa quanto la vegetazione è secca, sulle condizioni meteo, quindi l'intensità del vento previsto, perché purtroppo l'incendio si espande tanto, certo, più rapidamente quanto, certo, più la vegetazione è secca e quanto più il vento è forte. È chiaro. È banale, però messo in mappa e fornito su una scala regionale o eventualmente nazionale, fornisce delle informazioni utilissime che consentono di attaccare il fuoco, quindi di utilizzare lo strumento più adeguato per estinguere l'incendio. Quindi da un lato si capisce quali sono le situazioni critiche dove non si può assolutamente perdere tempo, bisogna intervenire immediatamente. E poi c'è questo secondo aspetto che lei anticipava, e cioè come facciamo ad intervenire, e qui appunto FireSat può fornire delle indicazioni, questo anche quando l'incendio a questo punto è in corso, no? Sì, diciamo sostanzialmente prima che l'incendio sia in atto noi diamo delle informazioni su quanto rapidamente, se ci fosse un incendio, questo si espande, quindi già se è possibile organizzare delle squadre a terra per l'avvistamento e per l'attacco. Nel momento in cui purtroppo si verifica l'evento, riusciamo con dei modelli matematici anche a stimare l'evoluzione dell'evento e quindi a fornire anche qui le indicazioni su come affrontare al meglio l'emergenza. Ecco, perché ci sono proprio delle classi, no, di incendio che hanno degli approcci completamente diversi. Sì, la cosa fondamentale è cercare di avere la possibilità di essere in campo il prima possibile, quindi di attaccare l'incendio quando è veramente piccolo, ovvero con le squadre a terra. Nel momento in cui l'incendio diventa grande, a quel punto è necessario, per combatterlo, l'intervento del Canadair. L'evento è diventato, non dico incontrollabile, ma diciamo, ma quasi. Esatto. Dunque è stato sperimentato, diceva, in Basilicata questo sistema, naturalmente in collaborazione con la Protezione Civile, previsto che venga esteso? Sì, è stato sperimentato dal 2007 in Basilicata, da diversi anni è già sperimentato, in via di sperimentazione in Cina e anche in Argentina, per cui ovviamente noi ci auguriamo intanto di estenderlo in Italia e quindi ovviamente anche all'estero. Grazie, grazie alla Saponara. Grazie a lei, buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.